Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Buonasera a tutti, io sono Stefano Dainese, questa è Rock Wave Live, come avete sentito dalla sigla, l'appuntamento con la musica dal vivo di Blu Radio Veneto. Questa sera abbiamo un graditissimo ritorno, un personaggio che, posso dirlo, è un uomo di parola. Certo. Si chiama Cesare Carucci, avete già sentito la sua voce. Lui venne qua, quanto tempo è passato? Da quando Un anno e mezzo. Sì. E ci disse: quando sarà pronto il nuovo disco, torno. Allora, il disco è pronto, nel senso che è proprio pronto. Se fosse cotto, se fosse un panino, sarebbe appena sfornato. Sì. Perché è già sei giorni. Martedì scorso. Ecco, e siccome era di martedì, non poteva venire, doveva venire di lunedì. Quindi il primo lunedì disponibile, Cesare, come promesso. È qui dalla nativa Cecina. Esatto. Cecina. L'avevo pronunciato un po'. E con un disco che si intitola Punch Up Train, sì. Che non è un tipo particolare di treno, ma è il nome di un grande lago. Lago, sì, sì. Tra, sì, ammetto, sì. L'ignoranza, io non sono andato a guardare su Google Maps. È praticamente il grande lago che è vicino a New Orleans, dall'altra parte c'è il sì, mare. Sì, sì. E lo stato del Mississippi, quindi. Vicino a New Orleans. Sì, quindi le storie del Mississippi si allarga talmente tanto che l'hanno. Vabbè, poi. Insomma. Sì, ma poi il Punch Up Train è tristemente famoso poi per la storia dell'uragano Katrina, che tutta la parte povera di New Orleans che dà sul lago Punch Up Train poi viene investita da quest'ondata di acqua, insomma, dovuta dall'uragano e. Si sa poi come è finita un po', cioè, questo. E tu hai pensato fosse un nome beneaugurante per il. Beh, sì, certo, non è un disco molto, molto allegro in termini di contenuti. Ma musicalmente è piuttosto allegro, dopo lo ascolteremo. Insomma, è un disco parecchio sì, swingante. Però c'è anche una parte, diciamo, la parte lirica, la parte dei testi, cioè che comunque ha un suo perché. Diciamo, non è che è stato intitolato Punch Up Train a caso, insomma, cioè è stato intitolato per un certo contesto, anche, chiamiamolo anche naturale, perché poi veniamo, lo sai bene meglio di me, dal terremoto in Emilia, veniamo da una serie di. Sì, perché specifichiamo, il terremoto a Cecina non è arrivato, però tu sei molto legato all'Emilia anche. Sì, sì, sì, però è. L'ho sentito, A Cecina? Sì, l'ho sentito. Il 29 di maggio l'ho sentito. La sedia ha traballato. Non pensavo fosse arrivato. È arrivato fin là, sì. Poi io ho questo legame con l'Emilia. Con l'Emilia, con Roots Music, esatto. L'associazione musicale che ci ha portato tanti grandi musicisti qui e con cui siamo, diciamo, in legame musicale. Per fortuna, sì. E allora io direi intanto ci ascoltiamo la prima canzone, sì. Poi per parlare del disco abbiamo tempo. Il brano si intitola Troubled Waters, mm-hmm. Che penso sia riferito proprio, c'è sempre un riferimento, anche se non parla di New Orleans, anzi è più ambientato a New York questo brano, però sì, poi ci sono dei riferimenti anche leggeri, però ci sono. E questo è anche il pezzo che hai scelto per promuovere l'album su internet, mi pare. No. Questo, no, io per promuovere l'album ho scelto un pezzo con i Mojo Filter che poi farò dopo. Ah, è vero. In diretta dal vivo, che c'è anche un video di questo pezzo. Troubled Waters è il brano che apre il disco, che è quello più consono, secondo me, a un'apertura, anche perché è un brano abbastanza. Mi ero confuso perché è quello che ho messo di più io. Ah, ok. Allora ci ascoltiamo Troubled Waters da Cesare Carucci e poi lo avremo qua con noi fino a mezzanotte. Chance to leave you, do the light to me. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E questo era Troubled Waters, un brano che ha una un'ampiezza di suono, diciamo. Sì, un po' sì, la sì, Tom sì, Petty, sì, se vogliamo, con la chitarra. Diciamo che un bel contributo glielo dà la chitarra di Paolo Bonfanti, che saluto con grande affetto e che mi ha chiesto un cacciucco in cambio di una schitarrata. Devo ancora... È uno che se ne intende. Sì, direi di sì, dai. Comunque prima o poi arriverà il cacciucco, quindi se Paolo mi ascolti, non credo mi ascolti, perché, però lo prometto qui pubblicamente. Siamo anche in streaming, diciamo. A proposito di così, di queste sonorità, queste influenze, no? Adesso faccio un po' una figura da pollo, se vogliamo, ma oggi pomeriggio stavo ascoltando il disco verso le tre, no? Perché per ripassare prima della trasmissione, e mi sono trovato, stavo facendo anche altre cose, mi sono trovato fra me a pensare, caspita, stasera la trasmissione è un po' impegnativa perché devo anche fare tutte le traduzioni, perché sentendo il disco chissà perché mi era venuto in mente che avrei dovuto fare l'intervista in inglese. Ma se vuoi la facciamo in inglese, ma... però... sono un po', no, ci sentiremo un po' ridicoli, giusto? No, allora, vabbè, la domanda classica in questi casi è la differenza col disco precedente, che era quello era il tuo primo disco sulla, diciamo, sì, sulla lunga, sì, a parte un EP distanza, che sì, ho fatto, però vabbè. Però il primo disco è sempre una cosa un po' a parte, no? Qualcuno ha detto che per scrivere le canzoni del primo disco hai 20 anni, per scrivere quelle del secondo ne hai uno. Non so se è stato Elvis Costello, ma non era sbagliatissimo come concetto. No, come differenze a livello produttivo, cioè la differenza che viene più all'orecchio è la parte produttiva, nel senso il primo disco era un disco che comunque era molto povero di contenuti musicali, nel senso c'era molta chitarra, però non è che ci sono stato dietro a livello di produzione. Questo disco comincia a essere a tanti riempitivi, a grosso lavoro di arrangiamento, è più nel suono, è più rotondo, è più professionale, anche, cioè, anche perché non ho mai nascosto che il disco vecchio l'ho fatto in un garage, quindi qui siamo già, insomma, a livelli microfoni migliori, chitarre migliori, amplificatori migliori, cioè, tutto migliora. Qui c'è stato un grosso lavoro di produzione, di suono, di rispetto all'altro magari è un disco che 11 pezzi che avrei potuto fare tranquillamente anche sulla spiaggia, chitarra e voce. Qui ci sono dei brani che avrei difficoltà a fare chitarra e voce tranquillamente lì, perché c'è un lavoro appunto di arrangiamento dietro che non lo permette, o almeno non dà lo stesso risultato. Posso dire che è un disco più ambizioso? Sì. Risposta... Sì, però vabbè, l'ho fatto perché non è che stavo cercando di arrivare a un risultato particolarmente... No, intendo ambizioso artisticamente. Sì, sì, però vabbè, sono rimasto sempre con piedi per terra anche, cioè l'ho fatto perché per provare, per vedere se riuscivo a migliorare da quel punto di vista lì. Poi quello che succederà, cioè, non è che mi sono dato un obiettivo. Beh, oggi come oggi credo non nessuno possa prevedere cosa può succedere, insomma. No, naturalmente ci auguriamo tutti il meglio, ma sì, sì, dipende, ne parliamo spesso anche con altri musicisti qui, in realtà quello che può fare il musicista è dare il suo meglio, poi quello che succede dopo è un po' nelle mani di Dio, se vogliamo usare questo termine, nel senso che ci sono talmente tanti fattori esterni, sì, esogeni, sì, diciamo, sì, sì, che sì, possono o non intervenire o non intervenire, che sono totalmente fuori dal controllo dei musicisti. Sì, e vero. La cosa interessante, anche se vogliamo, è che in questi anni questo è fuori anche dal controllo di musicisti che hanno comunque un potere, diciamo, mediatico, cioè nonostante non riescono più a gestire. Abbiamo questi fenomeni di ragazzini che arrivano su Pitchfork e diventano, sì, degli idoli, e nessuno riesce a capire il perché magari ci sono 10 band che, se le ascoltiamo io e te, non riusciamo a distinguere una dall'altra, e una vende poi a 1 milione di visualizzazioni, sì, e gli altri hanno i loro 20 amici. Per a volte il mondo... sì, a volte il mondo come, ora non mi ricordo chi lo diceva, ma il mondo della musica al mondo ora nel 2013, comunque forse anche 10 anni fa, però ora ancora di più è nelle mani degli uffici stampa o del manager che magari la sa meglio degli altri, ma non, quello non vuol dire qualità. Si sa che non è che se vendi tanto è come i cinepanettoni o... Beh, c'è una ragione precisa per questo, perché io non ho modo di ascoltare tutta la musica che mi arriva per le mani da varie fonti, diciamo. Certo. Cioè, letteralmente ho anche altro da fare nella vita, oltre al fatto che quando esce un disco che mi piace voglio ascoltarlo più volte, perché insomma non ha senso ascoltare il disco una volta soltanto, e quindi se si hanno degli input ben studiati, diciamo così, quello fa la differenza, come appunto stavi dicendo. L'ho detto perché magari l'ascoltatore può pensare che il manager bravo abbia, non so, il potere di mandarti in televisione o cosa del genere. No, in realtà si tratta appunto di entrare nei canali, giusto avere la recensione a pagina 2 delle riviste anziché a pagina 22. Sì, ma sa, la recensione ora come ora non è che sia, cioè io nel senso, recensioni del disco, che ne so, degli One Direction non credo nemmeno di averle viste, ma non credo nemmeno ci saranno, forse leggiamo i giornali sbagliati, ma a parte quello credo che i fan degli One Direction, no, non posso dirla questa. One Direction, cioè se fanno... Sta per dire che non so se sanno leggere. Basta la voce che sentite dietro del nostro ospite, non ho ancora detto, ci sarà una sorpresa verso fine trasmissione, il nostro amico Salvo Ruolo, avremo un duetto live. Sì. Siccome ci stiamo un po' dilungando, ti chiedo di allungarti invece, sì, per prendere in mano quel oggetto di legno dotato di corde con cui Cesare Carugi ci suonerà il primo brano dal vivo. E si tratta, me l'ha anche scritto il titolo, Your Memory Shall Drive, non è che scrivi benissimo. No, ho scritto sulla custodia della chitarra, quindi che è ruvida. Con la penna che non scriveva, con la penna sua, che, sì, con la tua penna che non scriveva. Con la penna che non scriveva, quindi è inutile. Ah, sì. Your memory will Your memory shall drive me home. Shall drive me home, che è sempre un pezzo di Poncher Train, Poncher Train, sì, ma sì, qui sì, l'ascoltiamo in versione dal vivo. Cesare Carugi. Vado? Vai. Nothing's changed at the break of noon. Once more I leave town on a slide. I turn the key and I let the engine run. But now I ain't got nobody by my side. I kick the dust, I punch the misty rain. I know you can hear me, girl. Now the road is dark, but your memory shall drive me home. All the ghosts moved on a fast lane. Were they just kidding you till they ruin it all? It's just another night on the borderline. Another cup of drinks just to fall. Across the river, the moon is blue and blind. I got dry leaves in my throat. I can't see the light, but your memory shall drive me home. Oh, the road is dark, but your memory shall drive me home. Oh, I can't see the light, but your memory shall drive me home. There's something hiding from my heart, it haunts me like a rabbit dog. Train staggers at sunrise and takes you away from my door. It's time for broken bottles and $10 for a loaded gun. gone. So how to watch you looking for? Good luck, honey. Goodbye. Allora, questa era Your Memory Shall Drive Me Home dal vivo. Mentre Cesare cantava, stavo sfogliando il libretto di Pontchartrain. Questa è una tua foto senza barba. E coi capelli lunghissimi. Sì, e per un attimo ho pensato, ha messo una foto di Stephen Stills. No, adesso chiedo anche a Salvo che conosce. Vabbè, c'è una bella differenza al di là del manico. Stephen Stills, insomma. Vabbè, insomma. Allora, però ce l'hai. Esteticamente. Sì. Esteticamente. Tutto anche mi sembra di avere anche un po' una faccia, sì, da fesso in quella, no, foto. Stephen Stills c'ha quei 40 anni di più, insomma. Che sì, per fortuna anche quei 100 kg in più ora. Perché... è così una cosa. Che, peraltro, vabbè, è un secondo musicista che ammiri, ma forse non è fra le tue influenze più. No, no, invece io ho iniziato. Quando iniziai era comunque facevamo cover di Simon e Garfunkel, automaticamente venivano fuori quindi cover di Crosby, Stills, Nash, Eagles, Cat Stevens, cioè comunque la musica di influenza West Coast, Jackson Brown, cioè comunque lavoravamo molto sui controcanti, quindi chiaramente Crosby, Stills, Nash erano dei... Falli al plurale perché eri in una band. No, in duo con quell'elemento lì. Ah, quello. Che è Leonardo Ceccanti, che è chitarrista e suono mai da quasi 20 anni, quindi... Ma per fare il disco tu hai una band che suona in quasi tutti i brani? Sì, sì. Che è la stessa poi che... Il batterista è sempre lo stesso, Leonardo Ceccanti suona credo in quasi tutti, forse l'eccezione di un paio, e poi i bassisti ci siamo un po' scambiati, comunque sono tutti amici, dal Lupo che hai conosciuto, che è stato qui nostro ospite un paio di volte, sì, anche. Con un paio di pezzi c'è lui, e poi c'è Matteo Barzacchi che è anche quello proprietario, diciamo gestore dello studio dove abbiamo inciso, che ha fatto le parti di basso e che sarà in tour con me nella presentazione del CD Full Band. E poi ci sono un sacco di ospiti, e poi c'è Jacopo Creatini al pianoforte, che anche lui suona in 6-7 pezzi del disco, e poi ci sono un po' di ospiti sparsi, voce femminile, ho visto clarinetto, insomma. Sì, c'è Sabina Manetti alle voci femminili, poi che anche lei è un'amica sempre lì delle mie zone, Giada Giammugnani, poi c'è Chiara Giacobbe al violino, Chiara Giacobbe ha suonato anche lei con Paolo Bonfanti, con i Lowlands, c'è David Zollo che è un grande amico e cantautore di Iowa City, lui sta in zona Chicago da quelle parti, poi c'è Francesco Piu, che è stato mio ospite, sì, qui, che lo conosci bene, simpaticissimo, esatto. E poi c'è Marcello Milanese, che è un grande bluesman di Alessandria, che mi ha aiutato molto per un pezzo, tutto suonando una chitarra costruita da lui stesso, che è una specie di Bo Diddley, sai, quelle quadrate, sì. Però è un resonator, non è una chitarra, è un dobro quadrato, cioè, veramente, veramente forte. Poi c'è Gianluca Baroncelli al sassofono, in un altro brano, e poi ci sono i Mojo Filter, che last but not least il Mojo Filter, Andrea Giannoni, anche lui che è un amico di Spezia, che sono in un'altra band, poi Mojo Filter, sì, no, beh, poi magari mi scordo qualcuno, ma sicuramente Mojo Filter che non solo mi hanno arrangiato un brano, che quello che sta girando su YouTube, ma mi hanno anche aiutato a girare il videoclip proprio del brano, quindi ricordiamo videoclip che si può trovare su internet, su YouTube, sul sito. Quindi Mojo Filter che sono una di quelle band che consiglio sempre a tutti perché ha bisogno di una bella scarica di adrenalina, e sono una band davvero, davvero tosta, di Bergamo sono loro, veramente divertenti, insomma una rock band di quelle che in Italia non si sentono spesso, che ricordano molto i primi Stones, uniti a quelle cose tipo Replacements, Blue Collar Rock, diciamo, sì, sono tosti, sono veramente stradaioli. Sì. Chissà, cercheremo di averli qua ma sì. Una volta o l'altra. Ci ascoltiamo adesso un altro brano da Puncher Train, il disco appunto che Cesare è venuto qua a promuovere. È un brano che ha come titolo un nome e cognome, giusto? Charlie Warrick. Sì. È un personaggio reale. Allora, Charlie Warrick infatti mi sono anche dimenticato di segnalare la Maria Laura Specchia che duetta con me in Charlie Warrick, che è una cantante musicista di Cecina che suona in una band che si chiamano Verily So, sono molto apprezzati, e questo Charlie Warrick è in realtà è il personaggio di un film del 73 di Don Siegel, era interpretato da Walter Matthau ed era un rapinatore di banche che decide di fare l'ultima rapina per poi ritirarsi. Walter Matthau faceva la parte del rapinatore. Sì, infatti era forse una delle parti serie, anche se comunque il film aveva un po' un tono da commedia, però bellissimo film. Chi ucciderà Charlie Warrick? Come e, grande film. Sì. E quindi niente, ho scritto questo pezzo perché lui nel film succede all'inizio, quindi non è uno spoiler, non rivelo il finale. Lui perde la moglie, gli ammazzano la moglie durante la fuga da questa banca di Tres Cruces, e quindi nel film diciamo che parlo un po' di lui che perde la moglie e quindi non sa dove andare dopo la fuga con i soldi, pensa di andare in Messico, però c'è sempre il ricordo della moglie. Niente, che è un film che merita sicuramente di essere visto e scoperto, cioè, da chi non lo conosce. Un grande attore, un grande regista, direi che è una coppiata che difficilmente si può sbagliare. Allora ci ascoltiamo questa Charlie Warrick. On September noon, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, questa era Charlie Warwick. Warwick, scusa. Charlie Warwick da Cesare Carugi, dal suo album Poncher Train. La presenza della voce femminile è legata al fatto che la canzone parla anche della moglie di lui? O? No, perché ce la vedevo bene. Semplicemente questo è forse il pezzo più sognante del disco, quello più etereo. Sì, a modo suo sì, però diciamo che mi ricorda molto, si parlava prima con Salvo, mi ricorda molto quel genere di musica che dopo Jeff Buckley poi non si è più visto. Oddio, si sono visti tutti quelli che lo imitano. Vabbè. Comunque sì. Cesare, che parlavamo l'altra sera giù in Sicilia a Catania, sai Enrica a Catania, e dicevamo che nessun altro artista come Jeff Buckley ha mai fatto un disco, forse mi sbaglio, ha mai fatto un disco solo così tanto importante, neanche Nick Drake, no, ne ha fatti tre. In Television, però poi dopo... Si parla di... Sì, beh, ha lasciato un segno pazzesco. Sì, anche con un solo disco. Non si sapeva cosa avrebbe fatto dopo. Esatto. Cioè, capito? C'è rimasto un po' il dubbio. C'è un disco che ha aperto universi. Sì. Sì, beh, è stato poi appunto imitato. In radio non si può vedere la copertina, però la copertina di un disco è importante. Insomma, tu hai scelto questa foto. Dove è stata presa? Senti, questa foto c'è una storia lunga che non sto a raccontare ora. È una casa abbandonata. Comunque, no, dunque, quella è una foto stata scattata in Canada da un mio amico carissimo, grande fotografo che ha lavorato anche per grosse aziende. E è andato ora a New York a lavoro, però è stato credo un paio di mesi in Canada. E niente, appunto, per questa storia che non sto a raccontare, lui mi doveva, fra virgolette, una, insomma, delle foto per questo CD. E allora niente, mi ha detto guarda, dai un'occhiata a queste se ti possono andare bene. E ho visto quella e niente, mi è piaciuta, che è una casa abbandonata su una riserva indiana in Canada. E lo stesso anche nel CD, nel jewel case ci sono le foto del lago, c'è questo lago, mentre la foto quella dentro è stata scattata in studio mentre registravamo il disco da un altro nostro amico, un altro mio amico fotografo, e che invece l'ultima è stata scattata a Bergamo alla fine delle riprese del video con i Mojo Filter, con la Rickenbacker di Carlo Lancini dei Mojo Filter, chiaramente. E poi lo comprerò anch'io. E la foto è virata un po' in blu per richiamare il lago? No, perché la foto era in bianco e nero in origine, però in bianco e nero anche la copertina del disco vecchio era in bianco e nero, e allora volevo un attimo cambiare un po' cambiare la tonalità un po', allora gli ho dato questo violaceo. Okay. Tutto lì, insomma. Ci sta bene comunque. Bene, adesso ci canti un'altra canzone. Sì. Recuperiamo la chitarra. Si tratta sempre di un brano estratto da questo album Puncher Train, un pezzo che si intitola Carry the Torch, porta la torcia, che però va intesa la fiaccola sì. Va intesa appunto in senso metaforico, immagino, cioè si porta la fiaccola di un'idea, di una non so come. Sì, questo pezzo è un pezzo che ho scritto per Carlo Carlini. Carlo Carlini, per chi non lo sapesse, forse è uno dei più grandi promoter di musica indipendente che l'Italia abbia mai avuto. È quello che ha portato in Italia Towns Van Zandt, quello che ha portato in Italia Graham Parker per la prima volta e un sacco di altri artisti, da Gioili a... Possibile contarli, perché... No, anche perché erano anche momenti diversi dove non c'erano troppe beghe dei manager, dei management, che ti chiedevano 16 bottiglie di Dom Perignon, camerino con i letti a castello, con i tappeti, e quindi lui li portava in giro. Alla domanda dell'artista, che poteva essere Graham Parker o che tra l'altro suonerà a Ferrara, poi dopo ne parleremo, dov'è il locale, oppure a che ora dobbiamo iniziare a suonare, Carlini rispondeva: chi se ne frega, prima mangiamo, poi oppure che ne so, cioè, ma è ora di iniziare, aspetta, prima la grappa, poi si inizia. Sì, lo conobbi, Carlo, abbastanza bene, insomma, quindi abbiamo un po' collaborato insieme. È un personaggio straordinario, scomparso troppo presto. Sì, dicembre 2011. Che però appunto ci ha regalato un numero pazzesco, penso di aver visto un centinaio di concerti organizzati da sì, lui. Poi organizzavo anche al Renfe a Ferrara spesso, quindi forse anche di più. Quindi la canzone è dedicata a Carlo. Sì, la scrissi io. Ho fatto molto bene a dedicare una canzone. Sì, l'ho dedicata a lui. E, purtroppo non l'ho conosciuto benissimo, tardi io, però insomma abbiamo fatto delle belle chiacchierate insieme. È stato piacevole anche per quel poco che abbiamo parlato, insomma. Sì, un'ultima cosa che posso dire su Carlo Carlini: me l'ha detto un musicista americano. Disse che Carlo era uno che quando prometteva una cosa la manteneva. Ha detto: lui non ha mai dato ai musicisti che aveva fatto in Italia un centesimo in meno di quello che aveva promesso. Sì, magari glielo dava di tasca sua. Esatto, però indipendentemente dai disastri che potevano succedere, che in Italia, come sappiamo, il mondo della musica non è diverso dal resto, insomma, c'è un po' sì. Però appunto Carlo aveva questa correttezza morale, etica, diciamo, questa etica di vecchio stampo, per cui lui intanto sistemava i conti come era stato deciso e poi provvedeva in qualche altra maniera. E appunto questo musicista che me lo disse aggiunse che non è una cosa così normale, non solo in Italia ma anche in molti altri paesi del mondo, cioè tutti i musicisti sono capitati fra le mani di persone che non hanno questo tipo di serietà. E appunto, perché lui, il discorso è nato dal fatto che Carlo sembrava il personaggio più naif e improvvisato del mondo, no? Come dicevi tu, appunto, sembrava il meno professionale del mondo, però sulle cose che contavano veramente, cioè lui diceva ti farò fare 8 concerti in Italia e prenderai questi soldi, e alla fine erano 8, a meno che non venisse il terremoto proprio, e i soldi erano quelli, e anche per questo motivo per cui poi è riuscito a portare tanti personaggi, perché appunto c'è il passaparola, quindi sì sì, infatti poi penso che comunque ha portato anche personaggi che all'inizio della loro, cioè erano solo all'inizio della carriera e poi sono diventati famosi, come Joe Henry o Dave Alvin. Cioè... Joe Henry l'ha portato a Padova, un chilometro qua dalla sede della nostra radio. Quindi, insomma... Ricordo un concerto incredibile a Renfe di Dave Alvin. Entro e assisto al check. E il tastierista, una band incredibile, il tastierista gli si rompe un tasto. Accanto c'era un ristorante cinese dove io non ci andrò mai. Ah sì, c'è sempre il ristorante cinese. C'è sempre il ristorante cinese, sì, sì, sì. Il Renfe invece no. Sì, c'è sempre, ma non è più il Renfe. Che... E allora io ho visto questa cosa, sono uscito un attimo a cercare un po' di olio, ho detto a Dave, cosa posso fare? Serve un po' di olio, mi ha detto in inglese che non capisco. Sono andato da questi cinesi, gli ho chiesto l'olio, me l'hanno dato. Sono tornato e si è sistemato il... Per tornare a Carlini, e credo che Dave avesse chiamato una persona, io non l'ho conosciuto Carlini, solo di nome, solo della sua fama, della sua straordinaria serietà. E Dave disse a Carlo, sistemato tutto, it's ok, e così quella sera hanno potuto suonare, hanno fatto un concerto straordinario, ricordo. Bene, allora Carrie the Torch per ricordare il grande amico Carlo Carlini. Sky turned black through the hourglass. Standing right here, staring at your dress. The only thing of you is safe from the ruins of a crumbling roof. Only room. Digging the dirt, I got mud on my shirt. I'm still awake for what it's worth. I pass my hand over your eyes, 'cause you look so bright tonight. On the other side, you're so bright. On the other side, give me some light. Away from the porch, I carry the torch. Memories slowly walk out of a door. Change my address, but not my past, 'cause it all comes back to me. Got a horse to saddle up at the edge of this town. Dear western wind, won't you take me home now? Valley is blind, I'm weak but still alive. You look so bright tonight. On the other side, you're so bright. On the other side, give me some light. When the morning rises, I will have something different to see with my own eyes. New seas and new mountains, new paths to walk and new walls to climb. wave my good night, a use of my time. There's nothing else to say at the end of the time. And even if a torch is turning off, your eyes still shine, 'cause you look so bright tonight. On the other side, you're so bright. On the other side, give me some light. Give me some light. Give me some light. Ciao Carlo. Carry the torch, in effetti anche il titolo è giusto, lui portava la fiaccola, veramente la fiaccola della buona musica, ci ha portato tanta luce in Italia, perché io mi ricordo, si parla ormai di molti anni fa, cioè quando vidi che Joe Henry veniva a Padova, fra l'altro saranno 120 metri da dove abitavo all'epoca, per me fu una cosa, è stata quella sera anzi che la prima volta che parlai con Carlo Carlini, e poi vabbè ci furono altri sviluppi che non interessano adesso i nostri ascoltatori. E andiamo subito con un altro brano, perché stiamo parlando tanto. È un brano che fa un po' da title track, se vogliamo, perché si intitola Poncher Train Shuffle. Subito viene alla mente Springsteen col termine shuffle. Ah. Insomma, però in questo disco io ho sentito degli echi springsteeniani in un paio di pezzi, ma non tanto in questo, ma in altri. Vediamo. Ma io comunque sono legato al, come si dice, allo spirito di Bruce Springsteen, chiaramente, cioè, quello che ho cercato anche con questo disco è un attimo non di allontanarmici, però comunque di far vedere che avevo anche altre, sì, beh, ma come dicevo, ispirazioni. È in un paio di pezzi che si sente, non è che sia, non lo definirei un disco springsteeniano alla fine, cioè. No, però cioè, non lo so, se me lo dici te ci credo, cioè, nel senso, io ho cercato di non metterceli, però può darsi, cioè, c'è un pezzo per esempio col sax, ci sono insomma delle soluzioni che ricordano molto lo Springsteen degli anni 80, però cioè, comunque ho voluto cercare anche di prendere ispirazione per esempio da gente che ascolto molto di recente, tipo Wilco, Nick Cave, Replacements, quindi insomma c'è un po' di tutto quello che mi è piaciuto. È normale che sia, ecco, così. È che appunto il titolo Shuffle, insomma, con la history... Sì, che poi lo Shuffle è un ballo, sì, cioè, sì. Alla fine è un ballo, come hanno fatto anche i Rolling Stones, l'Harlem Shuffle. Lui ha fatto gli Street Shuffle, io ho fatto il Poncher Train Shuffle, che comunque è un genere che ha quella cadenza ritmica della canzone, quel blues un po' cadenzato, un po' allegro, che si chiama Shuffle. Va bene, allora ce l'ascoltiamo adesso. Back in the mud, alligator in the kitchen, the flag crumpled all along. Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E questa era Poncher Train Shuffle. Sono le 23:23 minuti, non l'ho fatto apposta. Siamo qui in studio in diretta con Cesare Carugi per la presentazione appunto dell'album Poncher Train. È tornato a trovarci e adesso c'è una piccola sorpresa che è stata diciamo quasi improvvisata, ma chiaramente quando ci sono poi delle basi comuni le cose funzionano con una certa facilità. C'è appunto Salvo Ruolo qua ospite, che è venuto diverse volte come ospite, fra non tantissimo verrà a presentare finalmente il suo disco, che ormai è una cosa leggendaria, se ne parla da una vita, ma puoi dirlo Salvo, insomma, il disco uscirà, sarà disponibile? Si sembra come la chimera, no, uscirà, sì, io volevo intanto come sempre ringraziare questa radio, che è una radio che dà voce a chi generalmente non ce l'ha e quindi è una cosa di grandissimo valore. E dovrebbe uscire per Viceversa a fine gennaio, è un disco in lingua siciliana, è stato prodotto da Cesare Basile, che oltre ad essere insomma un mio amico è stato anche il produttore, e abbiamo composto insieme un pezzo, la sesta traccia del disco, che tu hai già, Stefano, sì, anche voi qua avete sentito, e quindi mi auguro di portarlo qua presto. Ed è un onore anche suonare stasera con il mio amico Cesare, che ci siamo incontrati finalmente, sì, sì. Fisicamente la cosa divertente, sì, sì, sì, è sempre, lo dico da osservatore esterno, cioè fisicamente Salvo e Cesare non si erano mai incrociati, no, però no, hanno una rete di conoscenze in comune impressionante, cioè, esatto, nomi che si rincorrono, perché appunto c'è questo mondo, è bello anche perché mi ricordo che una volta dicevano che i musicisti italiani collaboravano poco, invece mi pare che negli ultimi anni la mentalità sia cambiata, ci si sono un po' tutti resi conto che ci si arricchisce e poi si allargano le idee, insomma queste collaborazioni funzionano molto bene. Tutti i musicisti che vengono qua, appunto anche quelli che hanno suonato nel tuo disco, poi hanno suonato con altri che io conosco, sì, che sì, sono, certo, venuti, certo, qui, insomma è molto, molto bella questa cosa. Comunque Cesare e Salvo hanno pescato dalle paglie, fra le centinaia di canzoni che conoscono. Sì, sì, ne comune abbiamo opzionate una quarantina a tavola. Alla fine è caduto l'occhio su un brano di Bruce Springsteen. Infatti, appunto, parlavamo prima di Springsteen. E così, Lupus in Fabula, si dice. Sì, sì, sì, sì, sì. Peraltro, è un pezzo, diciamo, un po' secondario, nel senso che non è fra i famosissimi, però è un pezzo che a me piace moltissimo. Ad esempio, anche perché cioè, a fare Born to Run qui così un po', allora abbiamo scelto un pezzo minimalista, un po' di Springs, però da un disco che secondo me è molto sottovalutato, che è The Ghost of Tom Joad, di cui credo che testi del genere difficilmente li ha scritti nella sua carriera Springsteen, soprattutto in era recente. E questo è forse quello che si presta più anche a un easy listening, diciamo, perché comunque questo Tom Joad ha le sue difficoltà di cioè non è un disco che entra subito in circolo. Questo forse è il brano quello che magari entra più velocemente. Mi ricordo che all'epoca lo trasmettevo parecchio. È un disco che ci piace molto perché qua Springsteen fa il songwriter, che è quello che gli riesce meglio, perché assieme a Nebraska e assieme ovviamente ai dischi precedenti degli anni 80 di cui parlava Cesare, questo è insomma un po' fiacco verso la fine, però due o tre pezzi sono veramente da fine del mondo. Campione. E questo è Youngstown. Here in Northeast Ohio, back in 1803, James and Dan Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. They built a blast furnace there along the shore, and they made cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy worked the furnaces, kept the harder than hell. I come on, work my way to scaffold, the sweet, the devil as well. Well, tacky night, coke and limestone, fed my children and made my pay. Smoke style reaching like the animals got into a beautiful sky of sudden clay. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down, hey darling, in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio Works when he come home from World War II. Now the yard just scrapped from rubble. See, them big boys did what Hitler couldn't do. And this mill they'll build the tanks and bombs that won this country's war. We gave our sons to Korea and Vietnam. We're wondering what they were dying for. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down, hey darling, in Youngstown. From the Mongahela Valley to the Mesabi Iron Range, coal mines of Appalachian, the story is always the same. 700 tons in the middle of the day, and so you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet journey, I'm sinking down, here darling in Youngstown. When I die, I don't want a part of heaven. I will not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of hell. Magico qui negli studi di Blu Radio Veneto, Cesare Carugi e Salvo Ruolo, Youngstown da Bruce Springsteen. Credo che il boss sarebbe orgoglioso di voi, ragazzi, veramente bellissima versione. Vi assicuro, con poche prove è una cosa, ma sono canzoni che appunto loro hanno dentro e quindi vengono, insomma, così. Grazie, grazie, grazie, ma è un piacere suonare qua e anche con Cesare, grazie. Altrettanto. Bene, lasciamoli riposare, ci ascoltiamo un pezzo dal disco, da Punch Up Train, si tratta di Drive the Crows Away. Mm-hmm. The sun filtered out to the roof cracks, shining lonesome throughout the bar. Gypsy girl, you learned the lesson that nobody taught. On Saturday, you wanna come back home to face the road in your worn out shoes. You heard the fake bits once locked in your room, and you wave your hand, you drop the crows away, and you wave your hand, you drop the crows away. Teach me the tune they used to sing in the cotton fields, and I paved some street for you, where the grass grows tall and the peach trees bloom. I gave you a hat to shelter you from the scorching heat, and a kiss to make you feel loved. Seems little, my baby, but I swear it's all I've got. Drop the crows away, and you wave your hands. Drop the crows away, and you wave, and you wave. And you wave, and you far and away, I feel lost in your childish laugh. I could get crazy once again when my body gets dragged. Something was here, more or less, something from my heart and from yours. The sun inside my face, I never felt myself like that before. Drop the crows away, and you wave your hands. Drop the crows away, and you wave, and you wave, and you wave, and you wave. And you wave. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questa era Drive the Crows Away. Allora, tu sei qui per promuovere il disco, quindi dici intanto dove si può comprare il disco? Subito facciamo marketing allora, puro. Sul tuo fai sito? tutte le domande di in fila o ti rispondo? Vabbè, il sito, sì, il sito, il CD. Si può comprare sul mio sito cesarecaruso.com nello store, il sito che mi sono fatto da solo, No, scherzo. L'autrice del sito è qui presente, sì, quindi anche Cesare l'ha detto questo perché sa che in diretta radio non possono tirargli addosso niente. E i crediti vanno a, esatto, chi fa le cose. E sul sito, se no, si può trovare in copia fisica, insomma, di Nintendo, nei negozi di dischi, perché è distribuito dalla IRD, oppure su Amazon, su IBS, oggi anche su Karoo.com, che è sul sito di dischi Karoo, anche su iTunes. Su iTunes sì, però il download digitale, sì, chiaro, certo, chiaramente lì su iTunes, Amazon, CD Baby, eMusic, poi sono anche su un sito finlandese, addirittura uno lo può scaricare da un sito finlandese. L'altro giorno controllavo, vabbè, probabilmente perché hanno un accordo con probabile, sì, per cui anche via Spotify, cioè, insomma, comunque ce n'è a bizzeffe di modi per avere il disco. Ok, e poi se no ai miei concerti, chiaramente. Ai tuoi concerti, ecco, allora dopo subito se ne parla subito. Beh, puoi dirci dove e quando, se ti ricordi. Dunque, allora, la presentazione del disco avverrà a Cantù all'1:35 circa, che è il locale ormai storico di Cantù. Sì, è storico il nome, ma il locale nuovo è molto più bello di quello, sì, vecchio. esatto, che è l'ex Acquaplano. Non solo storico di Cantù, un locale storico italiano, insomma, per la musica al vivo, full band, con la band. E il giorno dopo sarò a Dozza, quindi sono anche abbastanza più vicino a Padova. Vediamo, Dozza è Dozzemolese, vicino a Bologna, insomma, provincia di Bologna, che è un paese favoloso, insomma, con queste pareti dipinte del paese, cioè lo chiamano il paese dipinto, infatti, e in teatro, il teatro comunale di Dozza. Il 12 ottobre, sabato 12 ottobre, venerdì 11 a Cantù, sabato 12 a Dozza. Poi sarò a Cecina, ovviamente a casa mia, il 16, il 17 sarò a Alessandria, il 18 a Francolino, quindi vicino a Ferrara, anche se sarò in formazione acustica, quindi in duo, mentre a Dozza sarò con la band. E poi, insomma, ci saranno altre date che uno può trovare sul sito o sulla pagina Facebook. Tutto quello che c'è, cioè SoundCloud, Twitter, Reverb. Tu mi pare che hai fatto poca pubblicità al disco su Facebook. Sì, infatti, c'è gente che mi ha cancellato dalle amicizie perché ne poteva più. Vabbè, poi se ci saranno dei concerti qua in zona, li presenteremo, insomma, sì, li annunceremo, sì, sì, anche, sì, noi, sì, qua, sì, in radio, chiaramente, perché è importante, insomma. Lo state sentendo adesso, insomma, com'è Cesare dal vivo. Poi chiaramente, se c'è l'opportunità di averlo insieme ai suoi compari o complici come, sì, come vogliamo, compagni di bevute, di merende, sì, chiaramente siete anche più rumorosi, insomma, è chiaro, sì. Più rock and roll, è chiaro. Dunque, sto guardando un po' i tempi, puoi suonarci un altro pezzo adesso, ok, che dovrebbe essere, ce li ho qua, se riesco a leggerlo. Questo è un pezzo di cui devi parlare un attimo, perché We'll Meet Again Someday, che è il ma pezzo... di verità quello volevo fare da ultimo, semmai... ok, allora cambi la sì, la dai, cambi un attimo la scheda in corsa. Caroline o Caroline, che... questo lo volevo fare anche perché è un pezzo del disco vecchio, se è possibile. Quindi diciamo che le regole sono molto molto, ecco, ampie, lievi, ecco. Do un piccolo spazio anche al vecchio disco East of the Road, che comunque resta un bellissimo disco, che ho anche trasmesso parecchio e che ricordiamolo, è comunque ancora disponibile. Sì, è ancora disponibile, perché è ancora anche quello distribuito alla RD, quindi volendo uno lo può, anzi credo che alla IRD siano rimaste ancora 4-5 copie disponibili, quindi se no tu ne hai ancora nel tuo store. Sì, quelle, ecco, quelle, allora, quelle non mancano mai, anzi ho fatto una ristampa poco fa di altre 500 copie, quindi allora bisogna ricordare alla gente che quando si ordina un CD fisico da un sito è sempre buona regola ordinarne due, perché infatti si risparmia sulle spese di spedizione. Esatto. E sono tutti e due molto belli. Quello lo deciderà l'acquirente. Questo l'ho detto io, mi assumo, okay, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Allora ci ascoltiamo questo brano, che è dedicato a a una fantomatica Caroline che non esiste, però bisogna essere magari da qualche parte del mondo c'è. Sì, ma spero di no, perché non è che sia proprio una persona molto una persona che non esiste. Vabbè, io sono molto fiction come Charlie Warrick e vi dicendo che questa è Caroline. Tonight you won't throw them away. Your loneliness is the best part of your day. You paint broken hearts on the wall of your own town. This black train's carrying you down. Now it's time for your shadow to leave the room. Everything's getting chilly and it won't heal my wound. They fall in love with their eyes, but they're partners in crime. Your tenderness is hiding at night. Tonight a sweet voice, baby, it sounds like a gun. I can read it in your eyes, dear, for you it's only fun. You lit up so many candles just to find out a lie. This is your life, Caroline. Your cheeks smooth as letters, striking like wine. Your words sound like poetry in the still of the night. But it all goes up in flames when the devil is you and leaves you there to burn the room. The devil's in your boots, cold as yours, the little heels. Moves the nails along the blackboard with your blood turning to steel. There ain't no fire that won't burn you, but it seduces you sometimes. This is your skin, Caroline, Caroline, Caroline. In a jukebox playing dumb and deaf. On the side of the road in the riverbed. Nothing but last night while the church bells rang. In the chill of the winter your eyes look so sad. While you dry your tears the road gets blind. This is your life, Caroline. Questa era Caroline, appunto, un pezzo che ormai ha un po' di anni, ecco. Sì. Prima avevamo accennato, visto che siamo eravamo appunto in pubblicità, diciamo così, l'iniziativa di Roots Music, con cui tu collabori. Sì. In particolare dicevi il concerto del grande Graham Parker. Sì, sì, sì, il concerto del Graham Parker sarà alla Sala Estense di Ferrara giovedì 10 ottobre. I biglietti su Ticket One si trovano, quindi li trovate insomma, su internet oppure nei punti vendita Ticket One. Il concerto sarà aperto da un chitarrista irlandese che si chiama Alex Seal, e per noi insomma, è un passo importante, anche perché è il primo concerto con cui per cui collaboriamo con la Barley Arts di Claudio Trotta, che è una delle tre, sì, direi 3-4 più importanti d'Italia in, come agenzie di promozione. E sì, beh, porta, organizz... di solito porta Springsteen, AC/DC, Kiss, e anche roba più piccola tipo non mi ricordo, Drive by Truckers, cioè comunque cose più più di nicchia. E Grand Parker, niente, abbiamo organizzato questo concerto, organizzeremo questo concerto, speriamo che vada bene. Sì, alla Sala Estense di Ferrara, pensando... se c'è qualcos'altro, non mi ricordo se c'è qualche altra cosa di importante da dire, però sto pensando che Parker è un grande, è in giro da parecchi anni, però pezzo. In Italia ha suonato pochissimo. Sì, tutto mi sembra manchi da una decina d'anni, credo. Probabile, sì. Anche perché poi ora si è rimesso insieme ai Rumors, dopo anni e anni di assenza, insomma, vedremo un po' in che forma sarà, nonostante sia un concerto acustico, perché lui viene da solo, farà un doppio set, un set acustico, un set elettrico, comunque sempre solo, e quindi vedremo un po' come... Beh, insomma, è un musicista che ha un repertorio piuttosto ampio, sì, qui a sì, Nigeria, sì, sì, diciamo. È 40 anni che tra è sulla... Penso che la Sala Estense sia anche un gran bel posto per fare concerti. Sì, è piccolo, però come posto, cioè, ha il suo fascino, cioè, questo teatro vecchissimo, teatro antico. Tra l'altro, se qualcuno che è interessato, dico che comunque i posti sono limitati, quindi attenzione, non fatevi trovare tutti all'ultimo secondo lì che vogliono i biglietti, perché quelli c'è il rischio di fare un viaggio a vuoto magari. Sì, meglio sempre meglio acquistare prevenire meglio che curare. In anticipo, okay. E allora abbiamo ancora una decina di minuti, possiamo ascoltare ancora un brano dal disco e poi sì, augurerai la buonanotte ai nostri, sì, ascoltatori con il brano che citavamo prima, il pezzo dall'album che hai scelto, Cracking the Ground, Cracking, sì, the Ground, che è il pezzo forse che si discosta più dal resto del disco, perché è un pezzo che io ho preso l'ispirazione di questo pezzo comunque dalla scena punk newyorkese, quindi è un pezzo che in effetti si discosta, perché sembra un po' di sentire un brano in effetti di Ramones magari, però con diciamo il tono grave di un Nick Cave magari, quindi cioè, è un esperimento che ho voluto fare, e appunto Cracking the Ground, cioè la crepa nel terreno, bene o male si sa dove si arriva con queste terremoti e cose varie, insomma. Quindi niente, ho voluto fare questo esperimento anche perché è un brano di rottura proprio nel disco, in mezzo al disco. C'è qualcuno che mi sta prendendo in giro perché sto facendo sto gesticolando. Un americano direbbe che sei un tipico italiano, infatti, e poi in realtà ho scoperto che gli americani gesticolano almeno quanto noi, però lo fanno in maniera diversa, e quindi gli sembra di non gesticolare. Sì, infatti. Allora ascoltiamoci Cracking the Ground. But they kept on killing you that night. The road was blind, a thin black line. Then you rise and open wide, like a crack in the ground. You dive into the waters deep, bound to get to the best. Gables black was nothing while sky turned bright. Cause merry tonight the moon's up there. There's a cold breeze where you were. Dry your tears with a hint to live. There's a heartbreak coming down here. The road was blind, a thin black line. Then the rise of the open white light cracked in the ground. Whoa, whoa, whoa. Ooh, ooh, ooh. Man, rising up and white like a crack in the ground, crack in the ground. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Cracking the Ground, questo immagino è uno di quei pezzi che dal vivo fate proprio buttando, no, i 150. No, facciamo in versione jazz. No. Sì, vabbè, chiaramente questo sarà uno dei momenti più, come si dice, concitati. Sì, non voglio pensare a cosa farò. Sicuramente non ho il physique du role per fare il Sid Vicious, vedrò, mi inventerò qualcosa. Infatti, ti spogli sul palco. No, per carità. Ora ci penserò. Bene, siamo ormai alla fine di questo appuntamento, come al solito in queste occasioni quando c'è musica dal vivo e amici, ambiente piacevole, il tempo vola, è un modo di dire molto banale, mi rendo conto, ma 90 minuti di trasmissione passano a volte molto molto velocemente. Ricordo, per chi si fosse messo in ascolto in ritardo, che questo live, come tutti i nostri live, sarà disponibile presto in podcast sul nostro sito, che è bluradioveneto.it, così potete riascoltare, magari riascoltate solo le canzoni, sì. Tralasciando le nostre chiacchiere, anche quella è la comodità del podcast. Comunque, insomma, viene preservato e può essere riascoltato in futuro per chi volesse, o per chi l'avesse perso, o per magari, non so, farlo ascoltare a qualche amico che non ha avuto l'occasione di essere sintonizzato in questo momento. Cesare ci lascerà con l'ultima canzone e noi chiudiamo sempre con un pezzo dal vivo. Questo pezzo è We'll Meet Again Someday. Someday, ci rivedremo un giorno, che è anche un auspicio. Un auspicio, appunto, per il prossimo disco. Oppure se passi di qua con la band, magari buttatevi dentro un momento, magari, se riuscite a infilarvi tutti in studio. No, cioè, che poi, essendo il disco comunque questo messaggio un po', infatti, la natura, del potere, della natura, contro il terremoto, Katrina, l'uragano. We'll Meet Again Someday è anche comunque un messaggio, le serie comunque. Ci rivedremo un giorno positivo, insomma, voluto. E poi la canzone che trovate su YouTube col video con i Mojo Filter, chiaramente acustica, rende un po' meno rispetto a quella del disco, però. Praticamente tu in questo brano hai usato i Mojo Filter come backing band pure in questo pezzo. Sì, a parte il batterista, che c'è il mio batterista Matteo D'Ignazzi che suona la batteria in tutto il disco, Carlo Lancini, Alessandro Battistini e Daniele Togni, che sono i tre Mojo Filter, tre quarti di Mojo Filter, mi hanno fatto tutto il resto, no? Quindi, bene. Insomma, è stata una bella collaborazione. Allora, We'll Meet Again Someday, Cesare Carucci dal vivo qui su Blu Radio Veneto. Ringraziamo anche Salvo Ruolo per la partecipazione. Grazie a voi, buona serata. E ci risentiamo a presto. Grazie a tutti e a voi per l'ascolto, naturalmente, e grazie a Cesare per essere stato con noi. the shadow of the weeping willows, cradled by the swinging bay. I know exactly when or where anyway, but we'll meet again someday. Beyond the blue horizon, behind the glass of champagne, we stayed alive, but time flew away. But we'll meet again someday. The thought I was sublime, once and for all, that I was only a memory in a frame. Thought I was forgotten, locked in a truck, on those broken hearts that are screaming pain. I took the garden, I took the wall, I took the frost, I took the flame, and out of town in the heart mystery, we'll meet again someday. Someday.